24, i gialli della storia. Torino, collina di Superga, 4 maggio 1949, pochi minuti dopo le 17. Il direttore della Basilica, Padre Ricca, avverte un boato seguito da un lampo accecante provenire dalla parte posteriore della costruzione e si precipita col cuore in gola verso il giardino. Lo spettacolo che si presenta ai suoi occhi è sconvolgente. Padre Ricca si rende conto che non può essere di aiuto a nessuno e sotto la pioggia battente si inginocchia, recita una preghiera e impartisce la benedizione. Intanto il fragore è stato avvertito distintamente anche dalla città. Abbiamo da poco terminato di giocare la solita partita al pallone in piazza Vittorio Veneto, dove io sono nato. Il cielo era terra, plumbeo. Era il preannuncio di un grosso temporale. Ci riparammo sotto i portici della piazza e sentimmo in lontananza, dopo pochi minuti, un rombo, un boato. Ma a chi appartengono i corpi? Da dove vengono? Insomma, chi sono quei passeggeri? Con l'arrivo dell'autorità sul posto si iniziano a raccogliere i corpi martoriati e gli effetti personali. A poco escono una maglia granata con lo scudetto tricolore sul petto, un passaporto intestato a Eusebio Castigliano, un paio di scarpette da calcio. La verità si fa strada. Si tratta dei giocatori del Torino di ritorno da Lisbona. Su Mix 24 oggi raccontiamo l'incredibile e tragica storia che sconvolse l'Italia quella sera del 4 maggio del 1949. A poche ore dall'incidente il paese era già in lutto. Il grande Torino, la squadra simbolo della rinascita italiana del dopo la guerra, non c'era più. Passò mezz'ora, tre quarti d'ora e si sparse subito improvviso la voce. Un incidente aereo. È morto il grande Torino. Sono arrivato sul piazzale. La mia prima impressione è stata l'immagine di Mazzola che era sul prato a braccia aperte, era stato buttato fuori con il viso rivolto verso il cielo e il viso intatto, lo si riconosceva benissimo. La città è stordita, la notizia si sparge, raggiunge mogli, figli e parenti. Ascoltiamo le testimonianze di Gigi Gabetto, figlio di Guglielmo, attaccante del grande Torino, e poi di Giorgio Tosatti, figlio di Renato Tosatti, giornalista che volava al seguito dei granati. La gente si fermava davanti alla cassa, non consumava, la guardava. E gli altri sapevano che l'aereo era caduto e mia mamma non lo sapeva. Allora, presa da questa aria insolita, ha pensato di telefonare all'Air Italia. E una signora molto gentile, come al solito, gli disse: ma come, signora, non sa che l'aereo è caduto e che tutto il Torino è mancato? Mio padre Renato era sull'aereo del Torino. Io andai a prenderlo al giornale quel giorno, il 4 maggio, e arrivai al giornale, c'era un sacco di gente fuori, avevo 11 anni, non sapevo come mai fosse quella gente fuori. Entrai, andai dal capo usciere e gli chiesi: papà è arrivato? Lui mi disse: ma non sai che è morto? Io ho saputo così della sua morte. L'Italia apprende la notizia dalla radio, la prima conferma della sciagura, mentre i giornali già preparano le edizioni straordinarie. A Superga sono morti in 31 tra giocatori, tecnici, dirigenti, giornalisti, membri dell'equipaggio. È toccato a Vittorio Pozzo, il commissario tecnico della nazionale, riconoscere uno per uno i giocatori, i suoi ragazzi, come li chiamava con orgoglio. Il dolore ferma l'Italia. Ai funerali partecipa una folla immensa di quasi 700.000 persone. Tutti gli italiani sono genitori, vedove, orfani dei poveri caduti, afferma il presidente della Federazione Calcistica Ottorino Barassi davanti a quelle bare, conferendo al Torino il quinto scudetto consecutivo. Ma il calcio italiano ha perduto le sue forze migliori e il rimpianto raggiunge tutti i paesi del mondo. In Brasile la squadra del giovane Altafini, che prenderà il nome di Mazzola in onore di Capitan Valentino, scende in campo indossando la maglia granata. La domenica seguente tutte le squadre ricordano gli scomparsi, onorandoli con un lungo silenzio che si unisce a quello del pubblico, commosso e ancora incredulo. Solo il Philadelphia, il campo del Torino, rimane deserto, avvolto in un silenzio irreale da incubo. Sembravano leoni. Dopo l'incidente, lo stadio Philadelphia viene abbandonato. Si pensa addirittura di demolirlo. Su quello stadio per anni Sauro Tomà, grande terzino del Torino, è tornato per respirare l'aria dei trionfi, ma non per parlare di Superga. Quando la squadra del Torino parte per Lisbona, Tomà è infortunato al menisco e su quell'aereo non sale. Sarà l'unico superstite del grande Torino. Ma chi erano quei ragazzi che vestivano la maglia granata? E com'era l'Italia del calcio a quei tempi? È da poco finita la guerra e attraverso il calcio gli italiani vogliono tornare a sognare. Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. Tornano le partite alla radio, torna la voce di Carosio che ci ha esaltato durante il campionato del mondo, arrivano le schedine del Totocalcio, allora chiamato Sisal. In questo momento il mezzo sinistro Neyedli che manovra il pallone, passano alla sinistra, Puc che vediamo zoppicare leggermente, Puc non arriva in tempo sul pallone. Tornano i giornali e i settimanali sportivi con le foto degli incontri. Il Torino fa vendere copie, il Torino fa sognare, entra nel cuore degli italiani assieme al ciclismo, a Bartali, ma soprattutto a Fausto Coppi, che del Torino è tifoso e grande amico dei suoi giocatori, tanto che dopo Superga correrà il giro con il simbolo dei granata sul petto. Io credo che il Torino e Fausto Coppi in quella fase storica del paese siano stati i simboli della rivincita del paese, un paese che usciva da una sconfitta, ne usciva umiliato, distrutto, ma con una grande voglia di riprendersi, di tornare a recitare un ruolo onorevole in mezzo agli altri. I giovani, i ragazzi di oggi non possono immaginare quale funzione positiva abbia avuto, direi determinante forse, abbia avuto sulla psicologia degli italiani insieme col cinema neorealista, abbia avuto la ripresa dello sport. Andare allo stadio oltre che veder giocare e giocare oltre che essere visti fu, come dire, una sorta di rito collettivo del paese che non ne poteva più del totalitarismo, della guerra, della miseria, dei bombardamenti, della paura, della morte. Non ne poteva più, non ne poteva più, voleva vivere. Erano Giorgio Tosati e Antonio Ghirelli. Il Torino diventa anche l'ossatura della nazionale. Vittorio Pozzo, che aveva portato l'Italia alla vittoria del campionato del mondo del 34 e del 38, punta tutto sui granata. Il Torino fu anche, sotto un certo punto di vista, il frutto di un'operazione compiuta dal commissario tecnico della nazionale Pozzo, che cercò di non disperdere i valori più interessanti della sua squadra e in accordo col presidente del Torino Novo glieli fece acquistare in modo di tenerli concentrati tutti in una città e fra l'altro alcuni di questi lavoravano nelle industrie, quindi per questo non vennero mandati al fronte, in modo quindi anche di non rischiare di perderli. In questo Pozzo fu sicuramente molto utile da vecchio tifoso granata nel consigliare questi acquisti a Novo e nel creare in questa squadra, in questa città, un nucleo che poi doveva essere appunto il nucleo fondante del grande Torino e non a caso della sua nazionale, visto che poi quasi tutti erano giocatori che poi Pozzo utilizzò nella sua squadra. Ma come nasce la società del Torino Calcio? È l'Hotel Fiorina, l'antico Hotel Fiorina, dove 90 anni fa, nel dicembre del 1906, proprio in quella sala nacque il Torino. Alcuni dicono che nacque da una costola della Juventus, in realtà i tifosi granata sostengono che l'autenticità della società è garantita perché nacque addirittura prima della Juventus. Il primo presidente non presente alla riunione era uno svizzero. Molto curiosamente l'Hotel Fiorina e la birreria che anticamente era ospitata in questo palazzo racchiudeva anche la sede della Juventus. I colori sociali sono il granata e il bianco. Prima partita, quella sul campo della Provercelli, vinta per 3-1. Primo scudetto nel 1926-27, poi revocato e vinto ancora l'anno seguente con quello che fu chiamato il trio delle meraviglie: Baloncieri, Libonati e Rossetti. Erano tre grandissimi campioni, soprattutto Baloncieri, l'antesignano del cosiddetto regista. Era un uomo di metà campo che sapeva anche fare tanti gol. Sulla scia di questa meravigliosa tradizione, il grande Torino, quasi vent'anni dopo, inanellò i famosi cinque scudetti consecutivi che lo consacrarono alla gloria non solo del calcio nazionale, ma direi del calcio mondiale. Negli anni seguenti splende la stella della Juventus, che conquista cinque scudetti consecutivi dal 1931 al 35, quando il calcio è ormai diventato un grande spettacolo di massa. Poi sono gli anni della grande rivalità tra le due squadre di Torino, una competizione che poggia su profonde motivazioni sociali. A parlarcene Antonio Ghirelli e Raffa Vallone. La Juventus è dal 23 la squadra della famiglia Agnelli, la squadra della Fiat. Il Torino invece è la squadra del popolo, è la squadra anche degli intellettuali di sinistra, diciamo, e si è molto avvantaggiato in qualche modo di questo contrasto, nel senso che come dire, ha mutuato dal popolo, ha mutuato dagli ambienti operai la grinta, la combattività, che è un po' il suo carattere distintivo attraverso i decenni. Quasi tutti i giocatori di prima squadra del Torino erano figli di operai, quindi c'era una corrispondenza, diciamo, familiare tra il campo di gioco e il pubblico. Era anche una lotta di classe. I tifosi del Torino odiavano i juventini e i juventini odiavano il Torino. È con Ferruccio Novo, presidente del Torino dal 39 al 53, che arriva la vera svolta per i Granata. Appassionato di calcio e tifoso del Toro, Novo si dedica a tempo pieno alla squadra. Da attento amministratore la organizza come un'azienda commerciale. Nasce così il mito del grande Torino, che arriva a conquistare cinque scudetti consecutivi. A parlarcene il giornalista Rino Cascioli e Antonio Ghirelli. Il grande Torino nacque da una sconfitta. Dalla sconfitta subita a Venezia, che favorì la Roma nello scudetto che la Roma vinse nel 42, che ci aveva il Torino come antagonista, e quella sconfitta naturalmente dette via libera alla Roma, ma quella sconfitta fece capire a Novo, presidente del Torino, che se voleva quella squadra che sarebbe poi giunta seconda, se voleva renderla competitiva, doveva renderla più forte. Il colpo magistrale lo fa al Venezia. Il Venezia ha una coppia di mezze ali fortissime, Loic e Mazzola. Loic è un giocatore di spola, come si diceva allora, una mezzala di spola che va avanti e indietro tra difesa e attacco, e Mazzola è un playmaker, è un giocatore molto più robusto di quello che sarà Schiaffino o Lidl, altrettanto e forse addirittura più bravi di lui in senso stilistico, ma non come presenza sul campo, non come capacità di guidare la squadra, di guidarla tecnicamente, tatticamente e agonisticamente, perché ha un temperamento di lottatore. La grande squadra nasce quel giorno con l'acquisto di Loic e Mazzola, che procurò un subbuglio a Venezia, come succede sempre quando si cedono i giocatori forti, tanto che il presidente del Venezia, per calmare la folla di tifosi inferociti, si affacciò sul balconcino con l'assegno di 1 milione, lo esibì, disse: ce l'hanno pagati 1 milione. Allora la gente, di fronte al milione, abbassò la testa e disse: beh, allora non c'era lotta. Il capitano del grande Torino è Valentino Mazzola, il simbolo dei Granata e della Nazionale. 30 anni, mezzala sinistra. I primi passi a Cassano d'Adda, dove è nato, poi nella squadra aziendale dell'Alfa Romeo di Milano, dove lavora. Nel Torino a partire dal 1942. 5 scudetti vinti, 130 gol segnati, 256 partite giocate. Anche i suoi due figli giocheranno a calcio e Sandro diventerà uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi. Valentino è anche protagonista di uno scandalo sentimentale. Si sposa una seconda volta, ottenendo l'annullamento del primo matrimonio in Romania. Questo, nella società italiana dell'epoca, gli procurerà non pochi problemi, ma per i tifosi Mazzola resta sempre comunque Mazzola, l'atleta che al fischio dell'arbitro sa trascinare tutta la squadra. straordinario talento, cioè Mazzola sapeva fare tutto. Tenete presente che pur essendo un giocatore piccolo di statura, perché non era assolutamente un giocatore alto, lui aveva una tale forza nei muscoli delle gambe che quando saltava di testa arrivava con la testa più alto della traversa. Vedete che ha fatto un sacco di gol di testa. Un giocatore straordinario, giustamente considerato secondo me da Boniperti, suo coetaneo che se ne intendeva, il più grande di quell'epoca. Per il derby della Mole una puntatina e Gabetto manda in vantaggio il Torino. Tra i tecnici c'è Egri Erbstein, ebreo nato a Budapest, talentuoso giocatore in Ungheria, una volta arrivato in Italia gioca nel Vicenza negli anni 20, quando l'Europa è ormai preda della febbre antisemita scatenata da Hitler. Erbstein tenta di raggiungere l'Olanda con la famiglia, ma per ben due volte il visto gli viene negato. È costretto a tornare in Ungheria, paese di origine. Da qui resta in contatto col presidente Novo, che aveva già pensato a lui come dirigente. A parlarcene sono la figlia Susanna, famosa ballerina di danza classica, e poi Antonio Ghirelli. Lui è tornato molte volte, a volte perfino in forma un po' clandestina. Era andato per esempio a Venezia per osservare Loic e Mazzola, che in seguito sono stati acquistati da Novo. Tutto questo compare come delle trovate di Novo. Novo era una straordinaria persona e credo che uno dei suoi meriti più grandi sia stato quello di individuare le qualità di mio padre. Nel 1946 lui si trasferì stabilmente a Torino, abbandonando tutto ciò che nel frattempo aveva costruito in Ungheria, perché Novo voleva che lui fosse qui, che lui riprendesse in mano totalmente l'organizzazione di tutta la società e tutte le squadre della società. Il Torino è una squadra sistemista, cioè il Torino accetta in pieno quella lezione inglese che ci è venuta da un pareggio del 39 a Milano, il pareggio che folgorò Fulvio Bernardini, che lo trasformò in un apostolo di questo gioco. Quello che sul terreno il Torino di Egri Erbstein realizza è una sorta di gioco universale che precede di 30 anni quello olandese. Sono tutti attaccanti e tutti difensori. Lui era essenzialmente un umanista, era un uomo di cultura, era più un filosofo che un allenatore, se vogliamo, dal punto di vista proprio umano e culturale. E insieme a tutto questo aveva una straordinaria competenza specifica. Era anche un profondo conoscitore della macchina uomo. Credo sia una idea di Erbstein. Il quarto d'ora iniziale della ripresa è assolutamente ubriacante e esplode in tutta la sua potenza questa macchina di guerra, e l'avversario non regge, anche perché l'avversario esce dallo spogliatoio, può aver pensato di avere bloccato, di avere imposto il pareggio al grande Torino, che è già un obiettivo straordinario, viene travolto, dopodiché la squadra si acquieta, per così dire, ma ormai il colpo è fatto. 30 aprile 49, a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà. Dato che la trasferta a Lisbona era di diversi giorni, gli avevo prestato una mia valigia marrone di cuoio e l'ho trovata intatta, addirittura la boccetta del dopobarba di vetro era intatta. E nella valigia ho trovato un suo regalo postumo per me, che è questa bambolina, una bambolina portoghese. Da allora non me ne separo mai, non farei mai uno spettacolo senza avere con me questa bambolina. È il suo spirito che mi segue. Nel 1949 il Torino si aggiudica lo scudetto. Alla fine di aprile i Granata iniziano a organizzarsi per partecipare alla partita di addio al calcio del giocatore portoghese Francisco Ferreira, amico di Valentino Mazzola, fissata per il 4 maggio in occasione della partita contro la nazionale portoghese. La mattina di quel giorno mia madre, insomma, abbia un presentimento, eccetera, cercò disperatamente di mettersi in contatto con mio padre e invece non ci è riuscito. A Milano salgono sull'aereo un trimotore Fiat 202 i titolari, più Dino Ballarin, fratello di Aldo, Bongiorni, Fadini, Grava, Martelli, Operto, Schubert, i dirigenti Agnisette e Civalleri, il direttore tecnico Herb Stein, l'allenatore Livesley, il massaggiatore Cortina, i giornalisti Renato Tosatti, Renato Casalbore e Luigi Cavallero, il comandante Meroni e tre membri dell'equipaggio, più il noleggiatore dell'aereo Bonaiuti. Novo, ammalato, resta a casa. Anche Carosio rinuncia per non mancare alla cresima del figlio. A Lisbona, su un incredibile campo, il Torino incassa 4 reti e ne segna una. A bordo il clima è festoso, il viaggio è lungo, ma prima di sera ognuno riabbraccerà la moglie e i figli, potrà restare a casa qualche giorno e passeggiare tra la gente di Torino che prepara la festa per il 5° scudetto. A Barcellona l'aereo effettua uno scalo tecnico e su quella sosta nasceranno molti interrogativi. Sull'aereo è stato caricato qualcosa all'insaputa dei passeggeri? E se sì, da chi? Il volo riprende, ma sul Mediterraneo il tempo comincia a peggiorare in maniera preoccupante. Cumuli di nubi si addensano all'orizzonte. Entrando nello spazio aereo di Savona, il comandante Meroni si mette in contatto con Torino. Dal campo dell'Air Italia gli comunicano che sulla città e su tutto il Piemonte il tempo è pessimo e la visibilità precaria. Un volo rischioso, specie per un velivolo come quello privo di radar. Sarebbe meglio scendere a Milano, dove le attrezzature aeroportuali sono ben più moderne, ma a Milano, dirà qualcuno, c'è la dogana, di cui è invece priva Torino. Poco prima delle 17 il marconista dell'aereo riceve da Torino la conferma che la visibilità è di poche centinaia di metri. Poi comunica, siamo a quota 2000, tagliamo su Superga. Qualcuno che è in volo sulla città entra a sua volta in contatto con l'aereo. Ho sentito un aereo che chiamava la torre, ho capito che era l'aereo che riportava il Torino perché lo aspettavamo, era preannunciato perché era un volo programmato e siccome il pilota era un mio amico l'ho chiamato e gli ho detto dove sei? Mi ha detto sono quasi ad Asti, quindi fra un quarto d'ora, 20 minuti arrivo a Torino. Sono quasi sotto le nubi, mi ha detto, perché questo è importante, sotto le nubi. Ho detto va bene, ti aspetto, e mi ha detto preparami un caffè. Ormai l'aereo dovrebbe essere visibile sulla pista, ma passano i minuti e del G202 non arrivano più comunicazioni. I tentativi della torre di controllo di stabilire un nuovo contatto si rivelano inutili. L'aereo vola a 700 metri e dalle nubi il comandante deve aver visto all'improvviso la Basilica di Superga.